Dodicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni e Luca. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Era verso mezzogiorno, quando il sole s'eclissò, e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Signore, il Golgota e la croce sono diventati il tuo trono. Ti adoriamo, nostro Salvatore e Redentore. Quando hai compiuto tutto, la tua croce è diventata potente, un amore immenso e infinito. Gesù, fa che ognuno di noi senta la grazia di volersi fermare davanti alla tua croce, dinanzi a questo grande segno dell'amore divino. Guardando la croce, possa la nostra fede essere guarita e aumentata. Concedi a tutti noi la grazia di non avere paura della croce, del dolore, della morte. La croce, come l'Eucaristia, è simbolo dell'amore. Signore, sul Calvario hai portato i peccati e le colpe di tutti gli uomini di tutti i tempi. Hai abbracciato il mondo intero e hai soddisfatto le ingiustizie degli uomini di tutta la storia. Non esiste un amore più grande. Dare la vita per gli altri. Purifica con il tuo amore il nostro amore, per essere capaci anche noi di offrirci per i fratelli. Eccoci sul Golgota, mentre ascoltiamo, come Giovanni, la tua calda parola. Ecco la tua madre. Giovanni, tu sei stato felice di prenderla con te e lei ti ha lasciato un grande segno qui sulla terra e in cielo. Una donna vestita di luce, la donna che vincerà e schiaccerà la testa al serpente. Gesù, ti preghiamo affinché nel nostro cuore, nella nostra vita, nel lavoro, nell'apostolato, sia sempre con noi la madre. Rendici consapevoli che non riusciremo a vincere il nostro serpente, non riusciremo a vincere le nostre tenebre, né a superare le nostre tempeste, se lei non è con noi. Grazie per averci dato la madre. Prima ci hai dato il tuo santissimo corpo e sangue, l'Eucaristia, e poi sul Golgota ci hai dato la madre. Un cristiano non può vivere senza l'Eucaristia e la madre, senza te e la tua croce. Avvicinami a te, affinché possa sentire la tua voce. Ecco la tua madre, affinché possa essere liberato il mio cuore e trovare il posto per la madre. Gesù, grazie per la madre.